Duccio Camerini che porterà in scena Risorgi al Piccolo Eliseo. E Duccio, ci sei? Ciao, eccomi qua. Tutto bene? Tutto bene, buongiorno a tutti, salve. Allora, è un piacere averti con noi, eri Ma stato anche per me è un grande piacere. All'ultima edizione di Una Mano sul Cuore, una serata per Radio Onda Rossa, c'eri anche tu, Alex Sbialiscosa. Ma come no? E poi sono dovuto andare via prima e ho continuato a sentirla alla radio mentre andavo in macchina. Ah, benissimo. È stata una serata piena, 2 ore sul palcoscenico con artisti che si alternavano. E, ora invece parliamo di questo tuo lavoro che a Roma è già stato e in che versione torna, Duccio? Torna al Piccolo Eliseo, debuttiamo domani, che è mercoledì 30, e restiamo al Piccolo Eliseo fino all'11 di dicembre e poi dal 13 ci spostiamo al Teatro di Torbella Monaca. Allora, dove restiamo fino al 18. Benissimo. Per chi ci ascolta, diamo un po' di indicazioni rispetto al testo. Come è nato questo testo, Duccio? Beh, è nato da un po' di rabbia verso la mia città, che è Roma, che è una città che sta messa male. È una città che è in decadenza, è una città dove viviamo sempre peggio e vorremmo qualcos'altro. E allora ci siamo immaginati, io scrivendolo e poi con gli attori che mi hanno aiutato a metterlo in scena, un ambiente terribile, un ambiente che ci facesse stare ancora peggio, ancora più male rispetto a quello che già stavamo. Ed è una periferia sventrata, una delle tante periferie romane dove abita il malaffare, abita la criminalità, abita la degradazione, l'emarginazione. E però le storie sono talmente estreme e i personaggi, gli attori che le interpretano sono talmente bravi, posso dirlo, che alla fine però non è uno spettacolo depresso, non è uno spettacolo triste, è uno spettacolo anzi che ci tira su perché vogliamo che queste cose non avvengano più. Senti, per quanto riguarda gli attori e le attrici in scena, ci dai qualche nome? Sì, allora Cristina Pedetta e Marica De Chiara sono le attrici, poi ci sono Simone Bobbini, Marco Damiano Minandri, io sarò in scena in un ruolo metà femminile e metà maschile, poi Ciro Carlo Fico e le musiche dal vivo di Matteo Colasanti. Benissimo. Senti, c'è un luogo internet dove saperne di più sullo spettacolo? Una pagina Facebook, un sito internet? Sì, c'è una pagina Facebook. Benissimo. Sì, sì. Allora, ricordiamo anche con i nostri video e con i nostri trailer. Benissimo. Allora, da domani, mercoledì 30 novembre, fino al 13 dicembre, giusto? No, da domani 30 novembre fino all'11 dicembre, okay, al Piccolo Eliseo, invece dal 13 al 18 dicembre a Torbella Monaca. Benissimo. Allora, Duccio, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi, grazie Federico, grazie a tutti voi. Ciao, a presto. Ciao. Ciao.